Buongiorno a tutti, siamo qui con Elettra Stambulis. Buongiorno Elettra e benvenuta sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi. Allora, curatrice, docente, scrittrice, ma soprattutto è qui in veste di curatrice di Cartographic, questa nuova collana curata appunto da te e che fa parte di Mesogea Edizioni, questa casa editrice italiana di Messina. Che cos'è Cartographic e perché anche questo nome? Cartographic è l'esito di un lavoro di molti anni, fatto prima col gruppo Ingwin e poi con Giuda, e in cui in particolare con Giuda, che è stata una rivista molto avanguardistica, ci interessava interrogare il rapporto tra geografia, che vuol dire letteralmente disegnare il mondo, e il fumetto, che per noi è un altro modo per disegnare il mondo. Quindi Cartographic è una collana, diciamo così, meno avanguardistica di Giuda, però mette insieme dei titoli che in qualche modo vogliono disegnare il mondo, ma in particolare l'area del Mediterraneo. Fanno parte appunto di questa collana tre volumi per ora, che sono Nero Vita di Daria Bogdanska, la trilogia di Beirut di Errak Rima e La piccola Gerusalemme, di cui tra l'altro tu sei l'autrice insieme all'illustratore Angelo Mennillo. Che cosa raccontano queste storie? E dunque, partiamo dal libro più recente, da Nero Vita di Daria Bogdanska. Ci spostiamo un po' dal centro del Mediterraneo, ma è una storia in cui al centro, come protagonista, c'è la stessa Daria, giovane polacca, che si reca in Svezia, il paese, diciamo, no, della socialdemocrazia, delle difesa dei diritti umani e delle grandi opportunità, per fare una scuola di fumetto, e si scontra però con tutte le burocrazie, le idiozie anche burocratiche che i nostri paesi sono riusciti ad inventare, tanto da dover essere costretta a lavorare in nero, ecco da qui il titolo Nero Vita. Però lavorando in nero non può avere il codice fiscale, l'identificativo fiscale che le permetterebbe di non lavorare in nero, ma finché, insomma, praticamente un serpente che si morde la coda, perché per avere questo identificativo fiscale devi lavorare, ma per lavorarlo devi avere, quale dei due, la gallina o l'uovo, insomma. Daria si mette in testa di cambiare le cose e di fare una battaglia sindacale. Quindi questo è un libro che racconta una battaglia sindacale condotta da una giovanissima che viene vinta, che cambia le cose, tanto che Daria è tuttora una sindacalista. Poi il volume precedente, Trilogia di Beirut, è molto più complesso da raccontare, perché questa si chiama proprio trilogia perché sono tre racconti diversi che hanno al centro Beirut, fatti in tre momenti storici diversi da questo disegnatore che posso chiamare ormai storico, libanese, che fa parte della Nouvelle Vague, diciamo, della scuola del fumetto libanese, che ha guidato un po' anche la rinascita del fumetto arabo del Nord Africa. Piccola Gerusalemme è invece proprio, diciamo, il collegamento, no, l'affilo che lega la collana Cartographic di Mesogea con la rivista Giuda, perché era uscito a puntate su Giuda, poi era diventato un volume intero pubblicato prima in greco, poi in turco, poi in francese e infine appunto in italiano, e al centro c'è la storia millenaria di Salonicco e le sue contraddizioni. Io ho avuto il piacere di comprare a Lucca Comics and Games di quest'ultima edizione del 2019 Nero Vita, appunto, proprio nel vostro stand, nel stand Mesogea, e mi ha colpito subito, sfogliando, perché non conoscevo il fumetto, innanzitutto tutto questo bianco-nero, le vignette così fitte, così piene di parole, ma soprattutto, leggendo dalla trama, la speranza di una lotta sindacale di appunto lavoratori che si trovano in difficoltà anche soprattutto in paesi stranieri rispetto al loro di origine. Voi, no, tu per prima, da che cosa sei stata colpita? Perché la scelta di tradurre questo libro anche qui in Italia? Beh, perché ci riguarda tutti, nel senso che poi, ecco, diciamo che io trovo improprio dire che un polacco che lavora in Svezia è un lavoratore straniero, perché comunque la nostra grande casa è l'Unione Europea, certo, a cui tutti noi apparteniamo. Quindi intanto dovremmo, come dire, rimodulare anche il nostro modo di pensare allo straniero, cosa significa, no, questa parola. La seconda cosa è che riguarda poi anche chi non è straniero, non è poi questa condizione, perché come dire, l'essere buttati comunque nella condizione del lavorare in nero, sappiamo bene che è una delle condizioni più comuni no, per i giovani. Assolutamente. Certo, ci colpisce che lo sia in Svezia, però in Italia diciamo ormai siamo quasi assuefatti a questa condizione, no? Al fatto che questo accada, che ti vengano pagati contributi che non corrispondano quanto hai lavorato, eccetera, eccetera. Quello che mi interessava di questo libro, però, era il suo aspetto combattivo, no? Che dà una speranza, un orizzonte, che ci riporta nel fatto che comunque lottare serve e che il mondo si può cambiare. Lo speriamo. Saranno aggiunti anche altri fumetti al catalogo di questa collana di Cartographic? Sì, certo, diciamo che abbiamo i prossimi titoli, sono già abbastanza, come dire, calendarizzati, non ne facciamo uscire tanti l'anno perché vogliamo concentrarci sulla qualità più che sulla quantità. Il prossimo titolo sarà questo fumetto che si intitola Hard Rock, di un disegnatore greco che si chiama Tasmar, il suo nome d'arte, e che racconta la sua adolescenza e gioventù da punk in una Grecia delle Cicladi di Atene, insomma, molto molto divertente, molto, diciamo, se vogliamo, un po' zero calcare, nel senso che anche lui è nato prima sul web e poi su carta stampata, ed è una sorta di piccolo idolo, diciamo, o punto di riferimento per una generazione che in Grecia è molto più vasta, diciamo, del piccolo cortile dei punk storici, ed è un fumetto veramente molto divertente, un po' anche diverso dagli altri di Mesogea, che sono un po' più, meno, diciamo così, meno portati alla facile risata. E quando sarà l'uscita, così l'aspettiamo? A Lucca. A Lucca. Oh, perfetto. Quindi ti aspettiamo allo stand. Sì, assolutamente. Ti aspettiamo assolutamente allo stand a Lucca, perché appunto lo faremo uscire in quell'occasione. Spero che ti piaccia, insomma. Sì, già la trama mi ha ispirato molto, quindi sicuramente ci vedremo a Lucca. Grazie mille, Elettra, per la tua disponibilità e complimenti, insomma, per tutto il vostro lavoro e per questa idea di questa collana così particolare. Grazie a te per l'interesse.